ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, anche per me. Nell'universo della mia pazzia ho una nuova teoria. Per me la gente vola. So cos'è che non va, disabitudine alla realtà. Come dire sono sola. Io dopo di te sono morta né guarita, ma ci ho provato, era mio diritto, era la mia vita. E mi sono vestita da regina vestita, diadema in testa, ma nessuno mi ha invitato alla sua festa. La gente vola, vola, e ti sto troppo giù. L'amore vola, vola, ed io mi sento giù. L'amore vola, e vola, e tu non c'eri già più. È il rovescio della mia vita, prova innocente, chiamare amore un amore qualunque, a cui di me non gliene frega niente. Ma non scoppia il cuore, non mi sento affogare, non ho voglia di bere né di parlare, perché non ho amore di cui parlare, e penso che forse davvero la gente vola, vola, ed io sto troppo. Vedo, oh, che se avrò paura. Ho il senso della voglia di te. Se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a planare per essere ricordati qui, per non sapere. Nasce un poco strisciando. Sì.

sta in casa che è buon tempo. Oggi non si rischia né pioggia né vento, no. Sempre a stento, vedi che si va a tempo. Tu vestiti come un angelo caduto sulla terra, da questo cielo che oggi il mio occhio non afferra. Tu vestiti come un angelo che giri per la terra, fallo per questo cuore senza pace, senza guerra per già piena la vita, maledetta attraversata, non sarà mai finita. Ma vedete a 9 nodi appena, se un punto fermo nel mare, che sa di natte lo nasconde con l'odore del tè e dell'erba da fumare. Oh mamma sì, da Panama, dov'è? Mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverai. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato su ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. sappia desiderare. Anche una luce piccola basta, io so farla bastare. Affamato, tu parlavi gentile, voglio dirti che le parole non mi bastano più, così vengono a nome delle carezze dimenticate, parole femmine scompagnate sul fango selciato del mondo. Passaporto